La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. Apriamo con l'approfondimento di Dino Pesole, questa settimana dedicato alla Roma occupata della Seconda Guerra Mondiale. L'occasione è l'uscita del nuovo libro di Paola Soriga, Dove finisce Roma, pubblicato da Einaudi. La protagonista è una giovanissima staffetta partigiana emigrata dalla Sardegna nella Roma che sta per essere liberata dall'occupazione tedesca. Una storia, una vicenda umana che si intreccia con la resistenza fino alla liberazione, che offre al lettore un racconto ad alta tensione civile, merce rara, potremmo dire, in una fase storica in cui non abbondano certo i valori cui ispirarsi. Il libro Dove finisce Roma, appena pubblicato da Einaudi, è opera di una giovane scrittrice, Paola Soriga, al suo esordio come narratrice. Paola Soriga si affida la figura di una giovanissima staffetta partigiana nella Roma che sta per essere liberata dall'occupazione tedesca, per esprimere il senso di cupa impotenza rispetto alla logica della guerra e delle bombe da un lato, e di reazione civile al tempo stesso di giovani che scelgono la vita contro la logica della morte. Una lettura che consigliamo proprio in questi giorni in cui si sta per celebrare l'anniversario della liberazione. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Ecco un passaggio del libro in cui Ida, la protagonista, racconta così i mesi terribili dell'occupazione di Roma, delle bombe e delle retate. La paura, da quando è iniziata la guerra, la paura fisica, per sé e per il suo corpo, erano le bombe. Era di esplodere, di rimanere schiacciata dentro un buco, come quelli dentro il rifugio. Era una paura da sentire assieme agli altri, assieme soprattutto alle altre donne, da stringersi le mani, da abbracciarsi e dirsi «su, coraggio». Adesso nella grotta la paura è tutta sua, che trema ad ogni rumore, che non sa far passare le ore. Ha paura di morire con i suoi 18 anni. Li aveva visti sparare diritto in faccia. Li aveva visti portare via gli uomini sui camion. E gli ebrei, al ghetto, le donne e i bambini. Avevano arrestato e fucilato. Li aveva visti portarsi via Nicole, amica mia. E poi c'erano stati 335 nelle fosse, e di molti non si sanno ancora i nomi. Pensavano che solo di 100 celle fossero almeno 20 ad esserci finiti dentro. Perché una giovane scrittrice, Paola Soriga, poco più che trentenne, decide di dedicare il suo primo romanzo, come lei stessa scrive nei ringraziamenti, a tutti quelli che hanno voluto raccontare la resistenza e soprattutto a chi l'ha fatta e chi la fa ogni giorno ancora? Questa è una domanda a cui in realtà io non ho una risposta precisa, nel senso che non è stata una cosa del tutto programmata. Non ho pensato adesso mi siedo e scrivo un romanzo ambientato durante la resistenza. È una storia che è arrivata un po' da sé, e quindi diciamo che ho trovato poi delle motivazioni mentre lo scrivevo e dopo averlo scritto. Devo dire che il fatto che abbia colpito così tanto i lettori, i critici, insomma, ma anche i lettori, il fatto che io appunto a 30 anni abbia deciso di ambientare un romanzo in questo periodo storico mi ha sorpreso, non mi aspettavo che fosse una cosa che stupisse, e mi ha fatto pensare che probabilmente come dire, non era un'esigenza solo mia, forse il modo in cui è stata trattata la resistenza, il modo in cui è stata un po' messa da parte negli ultimi 15 anni in Italia, evidentemente c'era bisogno di rispondere in qualche modo. E infatti lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il libro è stato accolto da un coro, possiamo dire, unanime di consenso da parte sia dei critici che anche dei lettori. I personaggi del libro, Ida, staffetta partigiana, e sua sorella Agnese, le giovani eroine sarde come lei, d'altro canto, sono a Roma nei mesi tragici dell'occupazione nazista, delle rappresaglie dei fascisti della neonata Repubblica di Salò. Rischiano la vita, una vita in fuga, in ripari di fortuna, come le grotte di Centocelle. Ecco, ci dica un po' come si articola il racconto. Sì, il il racconto si ambienta in realtà in una settimana, ed è la settimana proprio precedente alla liberazione di Roma del giugno del 44, in cui la protagonista Ida è nascosta dentro una di queste grotte, quelle che si chiamano cave fungaie, di cui era piena Roma, perché sta scappando dai nazisti che la cercano. E durante questa settimana in cui lei è dentro la grotta, ripercorre un po' la sua vita degli ultimi anni, cioè il fatto di essere arrivata a Roma appunto al seguito di questa sorella più grande, lo scoppio della guerra, eccetera. E fondamentalmente poi questo è anche un romanzo d'amore, in mezzo a questa storia c'è una storia d'amore. Ecco, la storia d'amore, ma anche una storia di amicizia, l'amicizia sì, profonda con Nicole, la ragazza ebrea che sparirà nel nulla nella razzia del ghetto di Roma. Come si inserisce questo sentimento profondo tra due giovani donne, appunto proprio nei giorni che precedono la liberazione, giorni concitati, come sappiamo? Sì, è l'amicizia con Nicole, questa amica ebrea, è un'amica molto diversa da lei, anche per provenienza sociale, per provenienza culturale, ma anche la sua amica Rita, che invece è l'amica del quartiere, quella più vicina per certi aspetti, ma anche lei profondamente diversa, viene da una famiglia comunista, una ragazzina non battezzata, cosa che per Ida è un qualcosa di veramente straordinario, non aveva mai conosciuto nessuno che non fosse battezzato. Sì, quindi è anche l'amicizia, questa è una cosa importante, forse anche perché appunto il racconto di anni che sono quelli dell'adolescenza, in cui insomma l'amicizia e l'amore sono davvero delle cose importanti, come dire, il confronto e l'esperienza con le persone che ti stanno accanto sono determinanti poi per tante cose. Poi arrivano finalmente gli americani e la liberazione. Ida vede sulla strada tutti che escono e vanno verso la Prenestina. Non ce la fa ad aspettare e si mette a camminare anche lei, incredula e stordita. E poi eccoli, questi soldati americani, biondi anche loro, ma le voci dolci, di festa. E altri soldati che chissà da dove vengono, le divise e le facce diverse tra di loro, ma tutti lanciano pacchetti colorati ai bambini intorno. Qualcuno suona. Proprio una festa si è creata all'improvviso con il sorgere del sole. Cammina tra la polvere e la gente e si ferma a salutare, farsi abbracciare. Zio Nando con la moglie, stupita e divertita. Don Pietro la abbraccia forte. «Ce l'abbiamo fatta, Ida! È finita davvero!» E pensa a Rita, che non è scesa a festeggiare. A Rita, Renata e Annina, chiuse in casa col dolore. Pensa a sua mamma, suo babbo e le sorelle. Le viene voglia di tornare a casa a scrivere una lettera e si guarda attorno per cercare Agnese. Pensa a Nicole. «Amica, dove sei?» Adesso puoi tornare. Ecco, i giorni della liberazione sono di grande intensità nel racconto. Perché ha scelto proprio di concentrare anche l'aspetto più emotivo, se vogliamo, della narrazione proprio in questi giorni poi fondamentali per il nostro paese? È una scelta un po' dal punto di vista narrativo, mi sembrava una cosa che bella, che potesse funzionare, il fatto che appunto ci sia una giornata così storicamente importante per Roma e per il paese intero, durante la quale però succedono anche delle cose più piccole che influiscono direttamente sulla vita dei piccoli personaggi di questo romanzo. Poi anche qua credo che il lettore possa dare delle interpretazioni anche diverse a questo finale, cioè proprio l'ultima riga, che insomma non svela niente, quindi posso dirla, in cui Ida si volta e cammina, ci sono stati dei lettori che hanno dato delle interpretazioni rispetto a questa cosa, cioè il fatto che lei appunto, come dire, una volta che la rivoluzione è compiuta e l'Italia è liberata, si gira e se ne va, ma queste sono cose a cui io non avevo pensato in realtà. Ecco, un'ultima domanda, un altro tema importante che è sullo sfondo, ma di fatto lo ritroviamo in tutto il libro, è anche quello della emigrazione interna. Sì. Ida è una ragazza sarda che va a Roma e quindi in qualche modo va in un'altra città, quindi c'è questo tema anche fondamentale in quegli anni. Come mai ha pensato di inserire anche questo elemento? Questo, devo dire, è uno degli elementi che per me sono stati alla base della costruzione di questo romanzo, perché sono partita più che altro dai luoghi in cui si svolge la vicenda, che sono questi quartieri periferici romani posti tra la via Prenestina e la via Casilina, che proprio in quegli anni stavano nascendo, sono borgate che nascono più o meno negli anni 30 e sui quali ho letto tante cose, delle memorie, delle raccolte di interviste, e questa cosa mi colpiva molto, cioè il fatto che fossero dei quartieri di immigrati che appunto venivano dalla Sardegna, dalla Campania, dal Veneto, dall'Abruzzo. È una situazione che mi sembra che rispecchi abbastanza quello che avviene anche oggi in questi stessi quartieri, dove i migranti sono del Bangladesh, della Colombia o del Senegal, ma insomma le dinamiche, le problematiche che le persone devono affrontare sono veramente molto simili. Grazie a Paola Sorico e complimenti per questo bel libro, Dove finisce Roma. Buona serata. Grazie a voi, arrivederci, buonasera a tutti.